Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Mie care eclettiche, miei cari eclettici, eccoci qua, anche quest'oggi, Giulio Caperdoni in vostra compagnia, un'ora, è il volume numero 4 di questa settimana, una settimana composta da 5 volumi, come tutte le settimane, volumi che poi, grazie al podcasting, potete mettere nella vostra biblioteca digitale e tenere e andare a ripescare quando meglio preferite. Le informazioni sul podcasting le trovate o su www.radiorockfm.com oppure su myspace.com/eclettica. Vi ricordo anche l'indirizzo di mail per tenere il contatto sia in questa ora in cui staremo assieme che anche in qualunque altra ora di un qualunque giorno. Giulio@radiorockfm.com. Credo che tu udisti il tuo padrone cantare mentre ero malato nel letto. Suppongo che ti raccontasse tutto ciò che tengo chiuso al di fuori della mia mente. Il tuo padrone ti fece viaggiare, almeno questo è ciò che dissi. E ora torni a portarmi il tuo prigioniero, il tuo vino e il tuo pane? Lo incontrasti in qualche tempio dove prendono i tuoi abiti alla porta. Lui era solo un uomo senza numero ad una cattedra, appena tornato indietro dalla guerra. Tu gli avvolgi il volto stanco nei tuoi capelli e lui ti offre il nocciolo della mela. Poi ti tocca le labbra, ora così improvvisamente nude, di tutti i baci che eravamo soliti darti. Ed egli ti diede un pastore tedesco per camminare, con un collare di pelle e chiodi. E mai una volta ti fece spiegare o parlare di tutti i piccoli dettagli, così come chi aveva una parola e chi aveva una roccia e chi aveva te attraverso le lettere, ora il tuo amore è un segreto in tutto il blocco e non si ferma anche quando il tuo padrone fallisce. Ed egli ti portò nel suo aeroplano che guidava senza mani e tu andasti in crociera sopra le strisce di pioggia che guidavano la folla dai campi. Poi egli uccise le luci in un solitario canale e una scimmia con ghiande angeliche cancellò i ciuffi di dolore con la musica di bande di gomma. E ora io ascolto il tuo padrone cantare, tu ti inginocchi al suo arrivo. Il suo corpo è un filo d'oro dal quale il tuo corpo sta ciondolando. Il suo corpo è un filo d'oro, il mio corpo crebbe indolenzito. Ora tu ascolti il tuo padrone cantare, la tua camicia è tutta disfatta. Questo era l'incipit di Master Song di Leonard Cohen. Thank you. Che bella questa tromba, bellissima la tromba che c'è in chiusura di Riverside da parte dei 13 Ghosts, loro vengono da Birmingham, in Alabama, quindi Stati Uniti. Come Stati Uniti sono la terra di provenienza di Collections of Colonies of Bees, che hanno aperto con la loro lunghissima Flocks Third. E si prosegue invece con l'Italia, con una band di cui avevo trasmesso il demo 2006 e che ora mi ha fatto recapitare tramite la sua etichetta Langle Records quello che è il primo disco ufficiale. Sto parlando dei milanesi The Pink Rays con l'album Songs Know Everything About Love, album che è già uscito da qualche settimana e album dal quale vado ad estrarre la traccia numero 6, Song Against G. e ti inginocchierai accanto a questo letto che lucidammo tempo fa, prima che il tuo padrone scegliesse invece di fare il mio letto di neve. I tuoi occhi sono feroci e le tue nocche sono rosse, e stai parlando molto lentamente. No, io non posso svelarti ciò che il tuo padrone disse prima che ti lasciasse andare. Penso che tu stia giocando in modo troppo rude per una signora che è stata sulla luna. Io sono stato a questa finestra abbastanza lungo per essere abituato ad una stanza vuota. E il tuo amore è della polvere in un vecchio tossito di uomo che sta battendo con il suo piede un ritmo. E le tue cosce sono una rovina. Tu vuoi troppo. Lasciami dire che tornasti qualche volta troppo presto. Io amavo il tuo padrone perfettamente, gli insegnai tutto ciò che sapeva. Lui languiva in qualche profondo mistero, come un uomo che è sicuro di che cosa è vero. E io ti mandai da lui con la mia garanzia. Io potevo insegnargli qualcosa di nuovo. Ed io gli insegnai quanto ti volessi per me. Non importa cosa egli disse, non importa cosa tu abbia fatto. Credo che tu udisti il tuo padrone cantare mentre io ero malato nel letto. Io sono sicuro che egli ti raccontò ogni cosa che io devo tenere chiusa fuori dalla mia testa. Il tuo padrone ti portò in viaggio. Bene, almeno questo è ciò che tu dissi. E ora tu torni a portarmi il tuo prigioniero, il tuo vino ed il tuo pane? Questa era ancora Master Song di Leonard Cohen. una manciata di minuti alla chiusura della prima parte di Eclettica, poi dopo una breve pausa ce ne saranno altrettanti, altri 30 per raggiungere l'ora anche quest'oggi, come tutti i giorni fra le 19 e le 20. Eclettica che prosegue con un interessante nuovo album di una formazione di 6 elementi che proviene da Minneapolis, album che sarà nei negozi di dischi a partire dall'8 di aprile, che si intitolerà Feel Good Ghosts. Loro si chiamano Cloud Cult. Questa è veramente una grande canzone dal mio punto di vista, curioso come sempre di sentire anche la vostra. When Water Comes to Life. Show you closed, they'll give you back to the